In Ogliastra la montagna diventa terapia. È la scommessa di un gruppo di operatori del centro di salute mentale della ASL di Lanusei. Questo gruppo nasce nel 2013 dalla passione per la montagna di alcuni terapisti e di alcuni loro pazienti, ma subito si avvertono altri piacevoli effetti. Il camminare insieme e scoprire angoli nuovi tra i monti ogliastrini presenta infatti tanti benefici. Il beneficio ricade soprattutto poi sulle persone che vengono a contatto con questo tipo di esperienza, quindi oltre che sui pazienti in sé, sono poi le realtà che vengono a contatto con questi pazienti in qualche modo a beneficiarne. Per la dottoressa Mariella Zoncheddu, psichiatra e responsabile del progetto di Montagna Terapia, le escursioni hanno anche un valore sociale. Durante queste escursioni si gettano le basi per creare un gruppo, quindi queste persone condividono un'esperienza che trattandosi di montagna è solitamente un'esperienza dura, faticosa e impegnativa che li porta ad aiutarsi gli uni con gli altri a riconoscersi fra di loro come persone. Le escursioni vengono progettate con esperti e seguono percorsi spesso difficili, ma i partecipanti sono in ottime mani. I gruppi sono sempre accompagnati da guide esperte che riescono a instaurare un rapporto di fiducia con i partecipanti. Abbiamo delle guide che da tanto tempo escono con noi, preferenzialmente facciamo riferimento a loro, a seconda dei casi contattiamo sempre le persone del posto come guida. Dovremmo avere però teoricamente una guida riconosciuta. Circa una decina di persone partecipano alle escursioni e al termine della giornata, stanche ma soddisfatte dell'esperienza vissuta, condividono le proprie emozioni, sedute in cerchio, in un momento chiamato gruppo. Un momento in cui si condivide tutti quanti l'esperienza della giornata, si tirano fuori le emozioni che ci hanno accompagnato. I raduni nazionali dei gruppi di montagna terapia sono chiamati sentieri di libertà. Si svolgono ogni 2 anni e ogni esperienza porta con sé tante emozioni. La dottoressa Zoncheddu ricorda il primo raduno del gruppo di Lanusei come un momento particolarmente emozionante. Perché per me era stato un traguardo riuscire a partecipare a questo evento, era stato un qualcosa che ho raggiunto con molta fatica e molta sofferenza personale e quindi per me è stato un momento simbolico in cui ho avuto anche qualche lacrimuccia. Per partecipare non è necessario essere esperti di trekking, basta la voglia di camminare su sentieri montuosi e di stare in compagnia. Per maggiori informazioni contattare la dottoressa Mariella Zoncheddu al Centro di Salute Mentale di Lanusei.